Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. L'avversione per le letture della regina non era circoscritta al personale di corte. Prima, quando portava i cani nel parco, li lasciava ruzzare sfrenatamente. Ma di questi tempi Sua Maestà, non appena era nascosta alla vista dei suoi, si buttava a sedere dove le capitava e tirava fuori il suo libro. Di tanto in tanto gettava svogliatamente un biscotto ai cani, ma niente più lanci della palla o del bastone. Fine della rituale frenesia che non mancava mai di allietare le loro scorrazzate. Seppur viziati e bisbetici, i cani non erano stupidi, perciò non stupì vederli, da quei bravi guastafeste che erano da sempre, sviluppare un odio sviscerato per i libri. Se capitava che alla regina cadesse un libro sul tappeto, ecco che arrivava subito un cane ansioso di balzarci sopra, scrollarlo come un topo e portarlo in un remoto angolo del palazzo dove si potesse felicemente farlo a pezzi. Aveva fatto quella fine Ian McEwan, benché avesse vinto il premio James Tite Black e perfino Antonia Byatt. Anche se la London Library era sotto il suo alto patrocinio, la regina si trovò diverse volte a scusarsi telefonicamente con il personale per la perdita dell'ennesimo volume. I cani detestavano anche Norman e, nella misura in cui il giovane era da ritenersi in parte responsabile dell'entusiasmo letterario della regina, nemmeno Sir Kevin ci teneva particolarmente ad averlo intorno. Era anche irritato della sua costante prossimità. Se da un lato Norman non era mai presente quando lui parlava con la regina, era sempre reperibile. Da lì a 2 settimane era in programma una visita nel Galles. Stavano rivedendo ogni singolo punto, corsa in supertram, concerto di ukulele, visita al caseificio, quando Sua Maestà si alzò all'improvviso e andò ad aprire la porta. «Norman!» Sir Kevin sentì raschiare una sedia mentre il cameriere si alzava. «Fra qualche settimana andiamo nel Galles!» «Che scalogna, maestà!» La regina si voltò per sorridere a Sir Kevin, che non sorrideva affatto. «Norman è proprio sfacciato!» «Abbiamo letto Dylan Thomas, vero? E qualcosa di John Cowper Poise. E anche Jan Morris. Chi altro ci resta?» «Potrebbe provare Kilvert, maestà», disse Norman. «Chi è?» «Un vicario, maestà, dell'Ottocento. Viveva al confine con il Galles e ha scritto un diario. Gli piacevano le bambine». «Oh», disse la regina, «come a Lewis Carroll. Peggio, maestà». «Cielo, può procurarmi i diari?» «Le aggiungo alla nostra lista, maestà». La regina chiuse la porta e tornò al suo scrittoio. «Vede, non può dire che non faccia i compiti, Sir Kevin!» Il segretario, che non aveva mai sentito nominare Kilvert, rimase impassibile. «Il caseificio è in una nuova zona industriale. L'hanno costruita su un terreno recuperato dalle miniere di carbone. Ha rivitalizzato l'intera zona». «Oh, non ne dubito», disse la regina. «Ma deve ammettere che anche in questo caso la letteratura ha il suo peso». «Non direi», ribatté Sir Kevin. «La fabbrica di fianco a quella dove Sua Maestà dovrà inaugurare la mensa produce componenti di computer». «Si canterà un po', vero?» disse la regina. «Ci sarà un coro, maestà. In genere non manca». Sir Kevin aveva un viso nerboruto, pensò la regina. Sembrava che avesse dei muscoli anche nelle guance. Quando aggrottava la fronte si increspavano. Sua Maestà rifletté che se fosse stata una scrittrice, magari se lo sarebbe appuntato. «Dovremmo cercare, Maestà, di cantare nella stessa lingua». «Nel Galles, per forza». «Tutto bene a casa? Tosatura in corso?» «Non in questa stagione, Maestà». «Ah, già, le greggi saranno al pascolo». La regina sgranò il sorriso che segnalava la fine del colloquio. E quando Sir Kevin, arrivato sulla porta, si voltò per fare l'inchino, lei era già sprofondata nel suo libro e senza alzare gli occhi si limitò a mormorare «Sir Kevin» prima di voltare pagina. E così a tempo debito Sua Maestà andò nel Galles, in Scozia, nel Lancashire e in Cornovaglia. L'incessante tour su scala nazionale che è destino della monarchia. La regina deve incontrare il suo popolo, indipendentemente da quanto goffe si rivelino quelle occasioni. Era proprio lì che il suo staff poteva rendersi utile. Per togliere dall'imbarazzo certi sudditi che ammutolivano al cospetto della sovrana, a volte gli attendenti offrivano spunti per avviare la conversazione. Sua Maestà potrebbe chiederle se viene da lontano. Si tenga una risposta pronta e poi possibilmente dica se è arrivato in treno oppure in auto. Allora la regina potrebbe chiederle dove ha lasciato l'auto e se c'era più traffico qui o da dove ha detto che viene. Ah, Andover. Vede, alla regina interessano tutti gli aspetti della vita nazionale, quindi a volte parla di com'è difficile oggi trovare parcheggio a Londra e da lì lei potrebbe discutere i problemi di parcheggio che si riscontrano a Basingstoke. Andover. Ma comunque anche Basingstoke è un incubo. Certo, ma ha afferrato il concetto? Convenevoli, insomma. Queste conversazioni erano effettivamente un po' terra-terra, ma avevano il merito di essere prevedibili e soprattutto brevi, e offrivano a Sua Maestà varie opportunità per tagliar corto. Così gli incontri andavano lisci e finivano in orario. La regina sembrava interessata e raramente i suoi sudditi si sentivano a disagio. Poco importava se poi il colloquio più atteso della loro vita si era ridotto a qualche commento sugli imbottigliamenti dovuti ai lavori in corso. Avevano incontrato la regina, lei aveva parlato con loro e tutti se n'erano andati puntuali. Simili scambi erano diventati talmente di routine che gli attendenti ormai non li sorvegliavano più, ronzando sempre ai margini delle adunate con un sorriso premuroso quanto paternalistico. Solo quando fu evidente che i silenzi erano in aumento e che sempre più sudditi facevano scena muta, cominciarono a origliare quello che veniva o non veniva detto. Così si resero conto che, senza notificarlo preventivamente al personale, la regina aveva abbandonato le sue domande collaudate, anzianità di lavoro, distanza percorsa, luogo di provenienza, e si era lanciata in un numero nuovo, e cioè «Che cosa sta leggendo al momento?». Pochissimi dei suoi devoti sudditi avevano la risposta pronta, anche se uno azzardò «La Bibbia?». Da lì le goffe pause che la regina riempiva con una frase del tipo «Io sto leggendo, eccetera, eccetera», a volte addirittura frugando nella borsetta e mostrando di sfuggita il fortunato volume. Non c'era da stupirsi se le udienze si facevano man mano più lunghe e stentate e un crescente numero di sudditi affezionati se ne andava col rammarico di non aver fatto una degna figura e l'impressione che la sovrana gli avesse giocato un brutto tiro. Pierce, Tristram, Gilles, Elspeth, tutti i fedeli servitori della regina, appena staccavano dal turno, si confrontavano. «Cosa sta leggendo? Ma che razza di domanda è? La maggior parte di questi poveretti non sta leggendo niente. E se lo dicono, lei pesca fuori dalla borsetta un volume che appena finito glielo regala». E loro lo vendono subito su eBay. «Proprio così. E di recente non vi è capitato di starle al seguito in una visita reale?» si intromise una dama di compagnia. «Perché ormai si è sparsa la voce. Mentre una volta la gente arrivava con un narciso o un mazzolino di primule spampanate che poi Sua Maestà passava a noi delle retrovie, adesso si portano i libri che stanno leggendo o addirittura scrivendo». E se hai la sfortuna di essere di servizio, praticamente ti serve un carrello. Se avessi voglia di scarrozzare libri in giro, mi sarei trovata un lavoro da Hatchards. Sua Maestà sta diventando proprio ingestibile. Gli attendenti si adattarono anche a questo e, per quanto poco entusiasti di variare il loro tran tran alla luce delle predilezioni della regina, si rassegnarono a cambiare tattica. Negli incontri preparatori con i sudditi, ora ventilavano che Sua Maestà, oltre a indagare sulle distanze percorse e i mezzi di trasporto usati, avrebbe potuto chieder loro cosa stavano leggendo. La maggior parte dei convenuti sbarrava gli occhi e gli attendenti snocciolavano una lista di suggerimenti. Poi la regina si faceva un'idea spropositata della popolarità di Andy McNab e di Joanna Trollope, ma pazienza. Almeno nessuno si era trovato in difficoltà e le udienze finivano spaccando il minuto come un tempo. I rari intoppi accadevano quando uno dei sudditi confessava di avere un debole per Virginia Woolf o per Dickens, perché in entrambi i casi iniziava un'accesa, nonché prolissa, conversazione. Molti auspicavano un analogo scambio di idee menzionando Harry Potter, ma in quel caso la regina, che non aveva tempo per quel genere letterario, subito replicava «Sì, sto aspettando il momento giusto per leggerlo» e sorvolava in fretta. Dato il loro rapporto quasi quotidiano, Sir Kevin poteva pungolare la regina rispetto a quella che ormai era diventata quasi un'ossessione. «Mi chiedevo, maestà, se non potremmo trovare il modo di ottimizzare le sue letture». Una volta, sentendo un'espressione simile, la regina avrebbe fatto finta di niente, ma uno degli effetti della lettura era stato proprio quello di diminuire la sua già bassa tolleranza per certe espressioni gergali. Ottimizzare? In che senso? È un'ipotesi che sto giusto testando, maestà. Ma sarebbe forse il caso di rilasciare un comunicato stampa in cui si dice che Vostra Maestà, a parte la letteratura inglese, sta anche leggendo i classici etnici. A quali si riferisce in particolare, Sir Kevin? Al Kama Sutra? Sir Kevin sospirò. Adesso sto leggendo Vikram Seth. Potrebbe andare? Il segretario non l'aveva mai sentito nominare, ma pensò che suonava bene. Salman Rushdie? Meglio di no, maestà. Non vedo proprio la necessità di un comunicato stampa. Perché al pubblico dovrebbe interessare che cosa sto leggendo? La regina legge, tanto basta. Mi immagino già la reazione generale. E allora? Leggere vuol dire sottrarsi, rendersi irreperibili. «Sarebbe già diverso, disse Sir Kevin, se come passatempo fosse meno egoistico». «Egoistico? Forse dovrei dire solipsistico. E allora lo dica». Al che Sir Kevin si lanciò. «Se potessimo veicolare le sue letture per uno scopo più ampio, acculturare il paese, ad esempio, per promuovere la lettura fra i giovani». «Noi leggiamo per nostro piacere», disse la regina. «Non è un dovere pubblico». «Forse dovrebbe esserlo», ribatté Sir Kevin. «Gran faccia tosta», fu il commento del duca quella sera, quando la regina gli riferì l'accaduto. A proposito del duca, che ne era dei familiari in tutto questo? In che misura le letture della regina si ripercuotevano su di loro? Se Sua Maestà avesse dovuto cucinare, fare la spesa o, sfiorando l'inaudito, passare l'aspirapolvere sui suoi numerosi pavimenti, si sarebbe notata subito una certa sciatteria. Ma naturalmente a lei non toccava niente di tutto questo. È vero che studiava i documenti ufficiali con minor dedizione, ma il marito e i figli non ne risentivano in alcun modo. Ne risentiva invece la sfera pubblica, dove questo impattava negativamente, stando a Kevin. Era evidente che Sua Maestà aveva cominciato ad adempiere malvolentieri ai suoi doveri. Posava le prime pietre con meno slancio E se doveva varare una nave, la mandava a scorrere giù per lo scalo senza tante cerimonie, come una barchetta su uno stagno, e intanto pensava al libro che l'aspettava. Se questo poteva preoccupare lo staff, i familiari in realtà tiravano un bel sospiro di sollievo. La regina aveva sempre preteso il massimo da loro e invecchiando non era certo diventata più indulgente. La lettura, però, l'aveva cambiata. Adesso li lasciava in pace e li vessava raramente e loro se la passavano molto meglio. «Viva i libri!» pensavano, tranne quando la nonna pretendeva che li leggessero o voleva parlarne a tutti i costi. Allora li interrogava o, nel peggiore dei casi, ficcava loro in mano un volume e poi controllava se lo avevano letto. Ormai non si stupivano più di vedere la nonna in qualche angolino tranquillo delle sue dimore, con gli occhiali sul naso, quaderno e matita accanto a sé. Alzava gli occhi un attimo e faceva un vago cenno con la mano. «Contenta tu», diceva il duca percorrendo a grandi passi il corridoio. Ed era vero, lei era contentissima. Si godeva la lettura come niente altro al mondo e divorava libri a velocità sbalorditiva. Non che ci fosse qualcuno da sbalordire, a parte Norman. Del resto la regina non parlava con nessuno dei libri che leggeva, ben sapendo che un entusiasmo così tardivo, per quanto lodevole, poteva esporla al ridicolo. Se le fosse venuta la fissa di Dio o delle Dalie, rifletté, sarebbe stata la stessa cosa. Alla sua età, pensava la gente, perché scaldarsi tanto? Ma per lei non c'era niente di più serio e nutriva per la lettura gli stessi sentimenti che certi hanno per la scrittura. Era impossibile rinunciarvi e per lei, in quella fase della sua vita, era come una missione. È vero che all'inizio leggeva con trepidazione e un certo nervosismo. Si perdeva di fronte all'infinita quantità dei libri e non aveva idea di come procedere. Leggeva senza metodo, un libro portava un altro e spesso ne iniziava due o tre contemporaneamente. Gli appunti erano venuti dopo. Leggeva sempre con una matita portata di mano, non per riassumere quello che leggeva, ma solo per trascrivere i passaggi che l'avevano colpita. Fu solo dopo un anno di letture e di appunti che Sua Maestà si azzardò ad annotare un pensiero tutto suo. «La letteratura», scrisse, «mi appare come un vasto paese dai confini remoti, verso i quali mi sono diretta, ma che non mi sarà mai dato raggiungere. E ho cominciato troppo tardi. Non potrò mai recuperare». Poi, un pensiero a parte, «l'etichetta sarà una cosa scomoda, ma l'imbarazzo è peggio». Leggere le metteva anche tristezza. Per la prima volta in vita sua le vennero dei rimpianti. Aveva finito una delle tante biografie di Sylvia Plath e in realtà era contenta di aver avuto una vita meno travagliata. Ma leggendo l'autobiografia di Lauren Bacall non poté fare a meno di pensare che la Bacall si era divertita di più e con sua sorpresa si trovò a invidiarla. Qualche settimana dopo la regina alzò gli occhi dal libro che stava leggendo e disse a Norman: «Si ricorda quando le ho detto che lei è il mio factotum? Bene, ho scoperto cosa sono io. Una tardodiscente». Con il dizionario sempre alla mano, Norman lesse ad alta voce: «Tardodiscente, chi impara solo in età avanzata». Era quella necessità di dover recuperare il tempo perduto a farla leggere con tale rapidità e ultimamente a commentare sempre più spesso e con meno incertezza. Cominciò quindi ad affrontare quella che a tutti gli effetti era critica letteraria con la stessa schiettezza che destinava ad altri settori della sua vita. La regina non era una lettrice clemente e spesso avrebbe voluto averceli lì, gli autori, per poterli rampognare. «Sono l'unica», scrisse, «a voler dare una bella lavata di capo a Henry James? Capisco l'ammirazione per il dottor Johnson, ma non ha scritto anche una quantità di pompose stupidaggini?» Un giorno, all'ora del tè, stava leggendo Henry James quando sbottò: «E muoviti!» La cameriera che stava portando via il carrello del tè disse: «Chiedo scusa, maestà», e nel giro di 2 secondi era già schizzata fuori dalla stanza. «Ma no, non tu, Alice!» le gridò dietro la regina, addirittura rincorrendola sulla porta. «Non tu!» Una volta sua maestà non si sarebbe preoccupata di quello che pensava la cameriera o di aver ferito i suoi sentimenti. Adesso però le dispiaceva e, tornando a sedersi, si chiese come mai. Al momento non la sfiorò l'idea che quello slancio potesse avere un nesso con i libri e perfino con quell'irritantissimo Henry James. A tempo debito però se ne accorse e in uno dei suoi appunti successivi scrisse: «È possibile che io mi stia trasformando in un essere umano. Non sono convinta che si tratti di un cambiamento auspicabile». E stavolta pensò bene di aggiungere la data. Oltre al senso di non potersi mai mettere in pari, aveva anche altri rimpianti. Se si fosse appassionata alla lettura 20 anni prima, avrebbe potuto conoscere tanti autori famosi che invece non aveva incontrato, o peggio ancora, che aveva incontrato senza sapere cosa dirgli. Almeno a questo però poteva porre rimedio, e così, anche su consiglio di Norman, decise che sarebbe stato interessante e magari divertente invitare un po' di scrittori che avevano letto entrambi. A palazzo si diede dunque un ricevimento, o una soirée, come insisteva a dire Norman. Gli attendenti ovviamente pensavano di dover seguire la procedura delle feste in giardino e degli altri ricevimenti in grande, preparando gli ospiti con cui probabilmente Sua Maestà si sarebbe fermata a parlare. La regina però ritenne che un'occasione del genere non richiedesse tante formalità, dopotutto erano artisti, e decise di lasciar fare al caso. Ma non si rivelò una buona idea. Anche se, presi uno per uno, gli autori le erano sembrati quasi sempre timidi, se non schivi, riuniti insieme erano chiassosi, pettegoli e, per quanto ridanciani, non li trovò particolarmente spiritosi. Sua Maestà prese a ronzare a margine dei vari gruppetti senza che nessuno facesse grandi sforzi per coinvolgerla e finì per sentirsi un'invitata alla sua stessa festa. E non appena provava a dire qualcosa, la conversazione languiva o precipitava in un atroce silenzio. Oppure gli autori, forse per atteggiarsi a snob, la ignoravano, continuando a parlare come se niente fosse. Era emozionante trovarsi in presenza degli scrittori che ormai considerava suoi amici e che aveva tanta voglia di conoscere. Ma proprio adesso che non vedeva l'ora di dichiarare la sua sintonia con gli autori dei libri che aveva letto e ammirato, si rese conto di non avere nulla da dire. Proprio lei, che raramente si era fatta intimidire da qualcuno in vita sua, adesso stava lì, impacciata, senza riuscire a spiccicare parola. Una frase come «Il suo libro mi è piaciuto da morire» avrebbe reso l'idea, ma 50 anni di contegno e understatement le impedivano di pronunciarla. Così provò a riciclare un po' del suo solito repertorio. Non tanto il classico «viene da lontano», bensì l'equivalente letterario. Dove prende le idee? Lavora orari regolari? Scrive direttamente al computer? Sapeva benissimo che erano luoghi comuni e la imbarazzavano, ma quel silenzio teso era peggio. Uno scrittore scozzese si rivelò particolarmente temibile. Alla domanda su come venga l'ispirazione, rispose con ferocia: «Non viene, maestà. Bisogna andarsela a prendere». quando le riuscì di esprimere, quasi balbettando, la sua ammirazione, nella speranza che quel certo autore, in questo gli uomini decise erano molto peggio delle donne, le dicesse come era arrivato a scrivere quel certo libro, il suo entusiasmo venne ignorato. L'autore preferiva parlare non del bestseller che aveva appena scritto, ma di quello a cui stava lavorando ora. E il lavoro procedeva così lentamente, come lamentava lui sorseggiando champagne, da renderlo l'uomo più infelice del mondo. Presto la regina decise che probabilmente era meglio incontrare gli autori dentro le pagine dei romanzi, creature dell'immaginazione del lettore come personaggi. Non sembravano neppure grati a chi aveva letto i loro libri. Erano loro ad averci fatto la cortesia di scriverli. In un primo tempo la regina aveva pensato di organizzare simili ritrovi a cadenza regolare, ma quella serata bastò a scoraggiarla. Una era più che sufficiente. La sua decisione fu accolta con sollievo da Sir Kevin, che non era stato entusiasta dell'iniziativa perché, come non aveva mancato di fare presente, se Sua Maestà organizzava una serata per gli scrittori, avrebbe dovuto dedicarne un'altra ai pittori e a quel punto anche gli scienziati si sarebbero aspettati una loro serata. Sua Maestà non deve dare l'impressione di essere parziale. Beh, non c'era più pericolo. Sir Kevin non ebbe tutti i torti a biasimare Norman per lo squallore di quella serata letteraria, perché era stato lui a incoraggiare la regina quando lei aveva ventilato l'iniziativa. Tanto più che neanche Norman si era divertito tanto. Per ragioni statistiche, la percentuale di gay fra gli invitati era piuttosto alta. Del resto, alcuni nomi li aveva suggeriti personalmente Norman, però la cosa non era andata a suo vantaggio. Anche se doveva solo servire bevande e stuzzichini come gli altri paggi, Norman, diversamente da loro, conosceva la fama e l'importanza dei personaggi a cui si avvicinava saltellante con il vassoio in mano. Aveva anche letto i loro libri, ma non era attorno a lui che si assembravano gli scrittori, bensì ai paggi più avvenenti e gli attendenti più altezzosi che, come disse Norman con acredine, ma non con la regina, non avrebbero riconosciuto un gigante della letteratura neanche andando a sbatterci contro. Insomma, nel complesso, invitare il Verbo incarnato fu un'esperienza infausta. Ma contrariamente alle speranze di Sir Kevin, questo non distolse Sua Maestà dalla lettura. Le fece solo passare la voglia di incontrare gli autori viventi. Così poté dedicare più tempo ai classici come Dickens, Thackeray, George Eliot e le sorelle Bronte.